l'ho già scontato. Ho parlato con la Madonna, Gesù Cristo e tutti i santi, ma si tappano le orecchie quando sentono i miei pianti. Ho i buchi nelle mani ma non mi hanno crocifisso. Soffro da quassù mentre guardo giù l'abisso. Guardami tranquillo mentre mi accollo ogni rischio. Tanto se ti chiamo non mi rispondi di fisso. Allora cazzo guarda il cielo, so il panico da sveglia per tutto quello che vedo. Perché a mio padre ormai gli parlo solo in foto. Tuo figlio è morto ma per me non è che ha fatto molto. Una bestemmia racchiude quello che porto. Ma non credo veramente di parlare un porco, perché vedo Dio ogni giorno quando apro gli occhi e mi specchio in soggiorno. È buio, chiudo gli occhi per l'ultima volta. La mia coscienza è morta, parlo a un Dio che non ascolta. Perché non mi conforti nel momento del bisogno? Perché hai fatto sparire anche l'ultimo sogno. E più sotto di così, io penso se è possibile. Mi penso alla mia vita e ciò che provo è indescrivibile. Solo sulla terra come solo in paradiso. Ciò che ho sopportato lo leggi sul mio viso. Quante volte ho cercato le prove della tua esistenza, senza mai trovare neanche l'ombra. Aspetta prima di giudicarmi, prima di punirmi. Tuo figlio non è stato sempre buono, ma devi capirmi tu, che mi hai lasciato senza alcun insegnamento. A stento, non mi sono perso. Non so cosa mi spinga a ricercare il tuo perdono. Tu che mi hai creato e neanche sai chi sono. Tante volte ti ho pregato, tante volte ti ho imprecato. Troppe volte dalla croce ti ho staccato e riattaccato. Ho sputato sul sagrato, sangue e mala sorte. Le arpe dei tuoi angeli erano senza corde. Inutili battaglie, sul crederci o non crederci. Sperando che ci fossi nei momenti più difficili. Mi ha detto siamo simili e mi guarda allo specchio. Mi ha detto puoi redimere e faccio un passo indietro. Nato col peccato, coltivato espanso. Nella vita mia solo tu sei quanto pianto. Tanto quanto mi dichiaravo un santo. Agli occhi di mia madre che ho tradito da codardo. Lo faccio adesso. Caccio via il tuo angelo, sono custode di me stesso. Di me stesso. Custode di me stesso. Custode di me stesso. Custode di me stesso.